Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Il sergante, il traghettatore. Oggi parliamo di libri, parliamo delle feste soprattutto dedicate ai libri. Parte da giovedì a Roma Libri Come, che è la festa del libro e della lettura. Nel programma si parla di economia, di conoscenza, di democrazia. 99 incontri, pensate, 225 relatori. Nello stesso tempo a Torino, vietato non sfogliare, una mostra un po' particolare, ve la segnaliamo perché per la sua delicatezza ma anche per la sua rilevanza, libri speciali pensati per la cultura dei diversamente abili, è organizzata da Aria Onlus. Libro uguale carta, carta per molti vuol dire distruzione di foreste o comunque, diciamo così, è un business di frontiera, critico. Esiste invece un modo per fare carta, per produrre carta, per usarla, che non intacca il sistema ecologico. Flavio Stragliotto è direttore dello stabilimento di Rossano Veneto di Favini, che è un'azienda che ha italiana, che ha un'immagine internazionale di grandissimo rilievo perché produce carta ecologica. Ingegnere, buongiorno. Buongiorno a lei. Carta ecologica vuol dire che non è fatta con gli alberi, è così? Sì, diciamo che Favini è il leader nella produzione di carta ecologica, che non è semplicemente carta riciclata, perché le nostre carte, tipo l'alga carta, un prodotto storico, un prodotto che è la nostra punta di diamante, viene prodotto utilizzando le alghe che vengono raccolte nella laguna di Venezia o nelle altre spiagge, nelle altre lagune del mondo. Che voi andate con i vostri mezzi di navigazione, prendete materialmente le alghe, o qualcuno le prende per voi e poi voi le lavorate? Prende per noi, le essica, li lavora, arrivano al nostro stabilimento e poi vengono utilizzate, macinate, trattate, per poi essere utilizzate nella produzione di carta. E quindi in qualche modo fate anche un lavoro di pulizia, contribuite a far fare un lavoro di pulizia. Esattamente, esattamente. E con lo stesso processo, che tra l'altro è brevettato ed è coperto da un brevetto internazionale, riusciamo a utilizzare anche i residui del mondo agroindustriale, tipo le mele della Val di Non, piuttosto che l'arancia del sud Italia. Ecco, questo come avviene? Due battute, cioè prendete le mele di scarto, le arance, che non sono più vendibili. I succhi, dopo sono stati magari anche estratti i profumi, perché da questi materiali vengono estratti anche i profumi, le essenze, il residuo secco viene utilizzato, perché è ancora ricco di fibra, di lignina, viene utilizzato per la produzione di carta. Poi leggo che fate carta anche da cotone, bambù. Esattamente, noi poi grano, mais. Abbiamo anche dei prodotti tri-free, si chiamano, perché dove assolutamente non c'è la presenza di una fibra da albero, ma sono presenti queste fibre da piante annuali, tipo l'indres di cotone, il bambù, la canna da zucchero dopo l'estrazione dello zucchero, e si produce questa carta che noi chiamiamo tri-free. Quindi questo vuol dire, insomma, che quello che fra l'altro potrebbe anche diventare un problema, lo smaltimento di questi rifiuti, addirittura viene rimesso in circolo in questa maniera così brillante. Qual è, allora mi chiedo, dov'è il punto, dov'è la criticità? Forse è una carta che costa troppo? Ma non è una questione di costo, è una questione quasi di, vorrei dire, di coscienza, diciamo che il mercato educazione, deve sviluppare forse questa coscienza ambientale, questa coscienza ecologica, e qualche volta accontentarsi magari di un prodotto, di una carta meno bianca e di un prodotto un pochino più grigio con dei puntini per gli utilizzi di tutti i giorni, per gli utilizzi del mondo grafico, nell'ufficio, nella scuola. Ecco, i vostri mercati, per capire, sono l'Italia innanzitutto, immaginiamo ovviamente, e poi mercati importanti di altri paesi in cui siete attivi? Siamo presenti molto in Italia, molto in Germania e in Europa in genere, e in questi ultimi anni abbiamo cominciato a essere molto presenti anche nel mondo asiatico. Stanno anche loro aprendosi a queste nuove sensibilità ecologiche. Grazie ingegnere, ci tengo informati per la prossima carta che inventerete dal nulla, ne daremo senz'altro subito notizia. Complimenti. Esattamente, buona giornata. A presto Favini in carta ecologica. Chiudiamo con una notizia di microfinanza collegata anche questa allo sviluppo sostenibile. Vi segnaliamo che martedì a Palazzo Clerici a Milano c'è un incontro aperto da un video importante di Jacques Attali, che parla della sua Planet Finance Italia, che è una società, vi ricordo, internazionale, che si occupa di microfinanza per lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà. È tutto per Ferry Boat, vi ricordo che siamo su Facebook alla voce Ferry Boat trattino Radio 24. Grazie ad Anita Panizza e Miriam Lucchetti in redazione e a Fabio Cantadori in regia. A risentirci.